E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la conta, trasmissione contro il carcere. Oggi è 15 di aprile, mercoledì 15 di aprile, e come ogni mercoledì va in onda la conta, appunto. Sono le 15:06 minuti e la conta va in onda proprio dalle 15 alle 16 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Dunque buongiorno a tutti e tutti, ma soprattutto buona libertà a coloro che ne sono privati e private, quindi che ci ascoltano dalle carceri o da altre situazioni di limitazione di libertà, e sono tante, no? Ebbene, proprio di questo vogliamo parlare, delle tante limitazioni di libertà che noi racchiudiamo un po' nella parola carcere, però non ci occupiamo soltanto del carcere inteso come edificio, che per esempio qui c'è Re Bibbia, a Via della Lungara Regina Celi, eccetera, ma proprio al sistema della sottrazione, annullamento della libertà, che vede appunto il carcere, ma anche gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare, vede anche il manicomio o le REMS, come abbiamo visto negli ultimi giorni questo evolversi del controllo psichiatrico, e poi i CIE, dove questi giorni c'è un ragazzo in fin di vita, quasi ucciso dalle volontà di deportazione presente nei CIE, e tanti altri sistemi, diciamo, che privano della libertà. In realtà questa società, per mantenere il proprio ordine economico capitalistico, restringe sempre più i margini di libertà, appunto, cioè di possibilità di fare alcune cose, comportamenti che possono incrinare quest'ordine, e allora è quello che si chiama repressione. Costringe sempre di più, utilizzando queste varie strutture, carcere, manicomio, REMS, appunto, CIE, eccetera, a stare dentro questo recinto della legalità, cosiddetto, che si restringe sempre di più. Bene, di questo volevamo parlare, soprattutto di come il sistema della cosiddetta informazione, quindi giornali, ma anche per esempio tutto ciò che gira in internet, oppure se volete la televisione ancora peggio, di come appunto il sistema dell'informazione o della comunicazione affronta questi problemi. Abbiamo visto proprio recentemente come vengono trattati come la notizia episodica, come un fatto di cronaca, vi ricordate, ne abbiamo parlato di carcere, i giornali hanno cominciato a parlarne quando la Corte Europea di Strasburgo, la stessa che ha affrontato il problema della tortura qualche giorno fa, condannò l'Italia prima con una grossa multa, perché costringeva i detenuti e detenute in condizioni cosiddette disumane e degradabili. Questa è proprio ciò che era stato firmato dallo Stato italiano, i vari governi precedenti, la Carta dei diritti dell'uomo, in cui c'è un capitolo che riguarda appunto lo stato delle carceri, come uno Stato dovrebbe trattare detenuti e detenute. La Corte Europea ha condannato lo Stato italiano perché ovviamente non rispettava quelle norme, ma ha anche richiamato a risolvere al più presto il problema del sovraffollamento, perché appunto altrimenti avrebbe appioppato un'altra multa molto più forte e avrebbe dato il via a tutte ai 6.300 circa erano ricorsi da parte di detenuti e detenute che volevano un risarcimento per il tempo passato in quelle condizioni, e questo è stato il primo atto. A quel punto i giornali hanno cominciato a parlarne, parla qua, parla là, che cosa è? La cosa triste che abbiamo notato è stata proprio la manifestazione di povertà intellettuale, quindi ignoranza totale da parte di chi ha affrontato questi terreni. Qualcuno in televisione, anche in diciamo, mettiamo questa buona fede, che poi è un termine che non dice niente, non so che vuol dire in buona fede, probabilmente anche i nazisti uccidevano in buona fede. Cioè la buona fede, come dice, di buona fede sono lastricate le strade che hanno portato al massacro intere popolazioni e milioni di esseri umani. Comunque, per dire, molti giornalisti in buona fede criticavano lo Stato italiano per come teneva le carceri, dicendo non c'è manutenzione, gli spazi sono angusti, la gente sta una sopra l'altra, non funzionano le docce, l'acqua calda, tutte queste cose qui, e che va bene, criticavano quegli aspetti lì, criticavano ciò che la Corte Europea aveva messo in luce. Perché la Corte europea non è che poteva trarre una affrontare il tema dicendo ma vediamo un po' come stanno i detenuti dentro, al di là del fatto che non rispettate i metri quadri, che le docce, i passeggi eccetera, come stanno, come soffrono di quello, non era un gruppo di persone libere di esprimere il proprio dissenso sul sistema carcerario italiano. Loro dicevano qui lo Stato italiano ha firmato una carta dei diritti in cui si dice che il detenuto deve essere trattato in questo modo e non lo attua, appunto, per cui gli mettiamo la multa. È una cosa, le cose giuridiche hanno poca elasticità, sono rigide sempre apposta, ma poco flessibili. E poi ritorneremo su questo aspetto perché rientra in tutti e tre i problemi, no? Carcere, manicomio, tortura, CIE, eccetera. Bene, a quel punto, forzato da queste cose, il governo italiano ha dovuto fare i famosi 4 provvedimenti svuota carcere, cosiddetti, che hanno ridotto da 68-69 mila presenze in carcere, quindi oltre, molto, quasi il doppio del consentito, a 54 mila quanti sono oggi, quindi ne sono stati mandati fuori non in libertà ma in misure alternative, quindi in altri sistemi di privazione di libertà, gran parte delle persone, per cui il sovraffollamento è calato e la Corte europea ha assolto, diciamo così, lo Stato italiano mantenendola sotto osservazione. Però a quel punto hanno cessato di parlare di carcere, è risolto il problema del carcere, nessuno si è posto il problema, andiamo a domandare adesso a qualche detenuto se sta meglio o sta peggio, quali sono le sofferenze che c'erano prima col sovraffollamento e adesso con meno sovraffollamento, che cosa è cambiato, ma non dal punto di vista delle strutture, perché le strutture, cioè, non è che i problemi sociali non si possono risolvere con un architetto o con un muratore, insomma vanno affrontati, bisogna vedere chi c'è dentro a quelle celle e come vive o come non vive, come soffre, quello sarebbe stato opportuno fare, non l'ha fatto nessuno, nemmeno le associazioni che stanno, si dicono vicine carcerati, continuano a dire ah qui questo non funziona, questo bisogna aggiustare, ma non affrontano che cos'è il carcere, non si pongono il problema, cerchiamo di capire cos'è, che cosa infligge sofferenza, quant'è questa sofferenza, se e perché tutta questa sofferenza distrugge, devasta le persone a cui viene imposta. Questo per quanto riguarda il carcere. Poi è venuta la questione dei manicomi, il 31 marzo scadeva il termine per la chiusura degli OPG, manicomi criminali, e l'apertura delle REMS, anche lì i giornali hanno parlato un po', televisione eccetera, una settimana a cavallo del 31 marzo, un po' prima e un po' dopo, dicendo un po' ribagionate, poi risolto, chiusi tutti gli OPG e adesso via le REMS. E tutti contenti e felici, l'emergenza è superata, non se ne parla più. In realtà non è successo non c'è stato nessun cambiamento, intanto è tutto in alto mare, le REMS per di più non ci sono, qualche regione ha dato in appalto a delle cliniche private i propri reclusi, perché non c'era tempo, né voglia né fantasia di costruire le REMS. Altri non sanno cosa farne in queste REMS, hanno fatto dei piccoli reparti, a volte ritagliati nelle carceri o nelle caserme dove ci infileranno questi. Insomma, non anche qui la legge intanto non è stata affrontata all'interno di un dibattito per capire se veramente esiste la follia e come va trattata, perché poi questo e se riteniamo che ci debbano essere delle persone, diciamo dei controllori chiamati psichiatri e tutta la struttura di contorno fino al fino al letto di contenzione, all'elettroshock, alla camicia di forza o al TSO, che possono vagliare sul pensiero e sull'azione di ogni singola persona e quindi valutare se il tuo pensiero è all'interno della norma, dell'ordine dato, oppure rischia di essere fuori, nell'oggi e anche nel domani, perché la presunzione di queste persone è, si ritengono deputate a decidere cosa farai domani, e questa è anche qui poi finita la settimana, la prima settimana di aprile, chiuso il problema OPG e REMS, si è passata via, finita. Poi è arrivata un'altra batosta, e questa quando sempre la Corte Europea ha detto in Italia c'è la tortura. O non l'avesse mai detto, a strapparsi i capelli, a urlare, beh, qualcuno sa che vogliono questi europei. In realtà lì non c'entra niente gli europei, quella carta l'hanno firmata gli stati, lo Stato italiano, tantissimi anni fa, nel 59, quello contro la tortura. Poi non ha fatto il reato contro la tortura, non l'ha fatto perché basta fare una somma aritmetica. In Italia le forze dell'ordine di vari tutti i tipi, no? Stanno tra i 250 e i 300.000, no? Più o meno, del conto. Ognuno di loro c'è intorno una famiglia, figli, moglie, parenti, eccetera, eccetera. Quindi è un bacino elettorale, fate il conto, 300.000 per 5, 6, 7, insomma, circa 2 milioni di persone costituiscono il bacino elettorale delle forze dell'ordine. Delle forze che mantengono inalterato l'ordine esistente, l'ordine capitalistico, quindi sono realmente forze dell'ordine, non dell'ordine umano che gradiremmo noi, dell'ordine capitalistico, perché oggi c'è solo quest'ordine, non ce ne sono altri, c'è solo un ordine. In ogni società, sicuramente nelle società moderne, ma forse anche in quelle antiche, comunque in quelle moderne è tassativo, esiste un solo solo ordine, che è quello che mantiene inalterato il sistema di produzione e riproduzione capitalistico. Il resto sono chiacchiere, fantasie, giochi, che fa bene, uno fa bene a farle, ma non esiste un altro ordine, esiste solo quest'ordine, e ci sono delle forze che mantengono quest'ordine. E quindi nessuno voleva mettere un reato di tortura che avrebbe tolto il consenso di questo bacino enorme che, no, arriva, sfiora i 2 milioni di persone, a quel partito, a quel gruppo parlamentare che avrebbe fatto la legge. Di questa legge, siccome da tempo anche lì l'Europa tirava le orecchie perché non mettete molti paesi europei l'hanno messa, l'Italia non li metteva, quindi anche lì la tirata d'orecchie era pressoché quotidiana. In Italia che è successo? Hanno fatto c'era in discussione un disegno di legge sulla tortura che andava dal Senato alla Camera, subendo sempre continue trasformazioni peggiorative rispetto a come l'aveva proposto l'ONU. Cioè l'ONU aveva detto ogni Stato dovrebbe mettere il reato di tortura, che è un reato specifico, questa parola, delle forze dell'ordine, non di altri, perché gli altri hanno già le altre, per le forze dell'ordine che hanno in custodia una persona arrestata, incarcerata, quello che sia, piantonata, eccetera, e che infliggono a questa persona sofferenze fisiche o anche psichiche, o fisico-psichiche, cioè qualunque tipo di, anche quindi una minaccia. Quando viene il magistrato e dice a te ti mando all'ergastolo, ecco, quella è ravvisata come tortura, secondo la declaratoria dell'ONU. Quindi, per dire che in Italia si abbonda di queste torture, oltre quelle, le botte, le torture vere e proprie, però anche quelle psichiche sono ritenute tali. Bene, ed aggiungeva anche questo la declaratoria dell'ONU, cioè diceva appunto, se le forze dell'ordine che hanno le ufficiali di Stato, quindi vale per la poliziotto, carabiniere, ma anche magistrato, ma anche piantone, eccetera, che hanno in consegna della persona, se esercitano su di questo violenze fisiche o psichiche per estorcere informazioni, confessioni, e questo dice. Quindi se avessero fatto una legge così come chiedeva l'ONU, è chiaro che per esempio si sarebbe potuto dichiarare tutti i processi degli anni 80-90, quelli contro i movimenti rivoluzionari degli anni 70, sarebbero dovuti essere perlomeno dichiarati non più legittimi, perché appunto lì quasi tutte le accuse venivano sorrette da una confessione di qualcuno fatta sotto tortura, sotto pressione, quindi saltava tutto il marchingegno. Vabbè, ora, non perché, per dire che gli altri paesi non fanno queste cose, quasi tutti i paesi esistenti al mondo usano, quando hanno problemi di emergenza, di stabilità, di difficoltà di mantenere quell'ordine capitalistico, usano sicuramente forzature, quindi anche torture. Non è questo il problema, non è solo l'italiano. Però adesso parliamo dell'Italia. Allora, anche qui, come gli altri casi, è venuto tutti a dire oddio, che è una vergogna, la Diaz hanno fatto le torture. Poi quando uscirà Trampola, se uscirà la sentenza per Bolzaneto, lì sarà ancora peggio. tortura al quadrato. Vabbè, comunque sia, insomma, tutte, allora c'era questa legge che bivaccava tra il Senato e la Camera, modificata di gran lunga rispetto alla come era stata originariamente concepita, quindi completamente annacquata, e che non riguardava più i soli agenti, diciamo, ufficiali pubblici, quindi agenti dell'ordine. È stata completamente cambiata, però l'hanno subito approvata al volo. Era alla Camera, è passata al Senato, approvata al Senato, adesso dovrà tornare, perché delle modifiche fatte al Senato devono tornare alla Camera. Insomma, verrà approvata, adesso l'abbiamo approvata. Non serve assolutamente a nulla quella legge, intanto perché non identifica il responsabile, l'ufficiale di Stato, ma semplicemente chiunque infligge, per esempio, chiunque per cui, in base a quella legge, e questo è uno studio che hanno fatto alcuni avvocati dell'Unione Camere Penali, in base a questa legge, ma chiunque, non è necessario essere avvocati per capire che in base a quella legge gli agenti della Diaz e di Bolzaneto non sarebbero stati incriminati in base a questa legge, quindi non hanno fatto niente, hanno fatto un altro pateracchio. E così, e poi arriviamo anche al CIE, e quindi di questo se ne parla 2 o 3 giorni, poi non se ne parlerà più. Insomma, la conclusione, per non parlare del CIE, dove questo ragazzo in fin di vita nemmeno ne hanno parlato, nemmeno un trafiletto da qualche parte. Questo per dire che non pensiamo che, leggendo i giornali, ci riteniamo informati, casomai ci riteniamo disinformati. Il problema dell'informazione è ben tutt'altra cosa. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're saying is, I love you. I hear babies cry, watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mine, just just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She says, ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who do you love? Who do you love? Allora, 15:26, quasi 27, ancora, dicevamo. Allora, il dibattito è affrontato sugli OPG e sulla trasformazione della reclusione psichiatrica in REMS, che vuol dire sta per residenza, per residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. È come diciamo tutto in alto mare, perché così lo dicono, perché come al solito mancano gli stanziamenti. Allora, gli stanziamenti non tanto per costruire l'edificio REMS, perché quelli ci sono. Il problema è di, secondo perlomeno alcune persone che hanno interpretato quella legge come un tentativo di superamento della reclusione per le persone dichiarate con difficoltà mentali, no? Ma cercando di creare le REMS come momento di passaggio da una situazione di reclusione a una situazione appunto di in qualche modo accompagnamento all'esterno per far riprendere la libertà. Queste le persone che sono circa 700 e qualcosa, quelli dimessi dagli OPG, usciti dagli OPG, di cui più della metà non entreranno, erano già dimissibili, quindi non entreranno nelle REMS, e dove andranno allora? E lì è successo il panico, perché come al solito si fanno delle leggi, abbiamo già spiegato come quella legge che per la risoluzione degli OPG è stata fatta solo sotto l'emotività, perché anche questi dirigenti di questo paese, che non sanno assolutamente nulla di questo paese, si sono stati sconvolti quando hanno visto di faccia, da vicino, un OPG. Sono detto, ah, una vergogna, campi di sterminio, di concentramento hanno chiamato. A parte che questa cosa doveva dimettersi, perché avrebbe dovuto dire, io che sono, era una commissione di senatori, io che sono un senatore di questa Repubblica, quindi dovrei rappresentare il popolo, quindi dovrei conoscere dettagliatamente come c'è. Infatti hanno uffici studi, consulenti, segretari in pitch in broi. Se non so che esiste questo fatto, che è una struttura dello Stato, l'OPG non è che era un privato che faceva malversazioni, l'OPG, se non so che lo Stato ha questi strumenti e li tratta, e tratta le persone recluse qui dentro in questo modo, mi devo intanto dimettere da senatore, perché sto reggendo il gioco. Cioè, sei tu responsabile di quella cosa. Cioè, il senatore che quando sono usciti dalla visita degli OPG inorriditi, dicendo è una vergogna, non lo sapevamo, andranno chiusi, no, dovevano prima cosa dimettere, non dire tante stupidaggini, prima cosa di dimettere, perché il responsabile di quell'OPG non è il direttore, lo psichiatra, te sei tu, perché in Italia dice la Carta Costituzionale, è una Repubblica parlamentare, cioè il primus, l'istituzione principale, cioè il dominatore, il re di questa società è il Parlamento, nemmeno il governo, è il Parlamento, questo lo sapete. Ci sono repubbliche presidenziali e repubbliche parlamentari. La nostra è una repubblica parlamentare, cioè il primo non è la funzione esecutiva, cioè il governo o presidente della repubblica, ma il Parlamento. Il Parlamento è il capo, quello che è la sovranità sta nel Parlamento, cioè il sovrano, quella che era le prerogative del sovrano sono passate al Parlamento. Quindi chi sta al Parlamento sono i regnanti di questa cosiddetta democrazia. Beh, perlomeno dovrebbero sapere tutto, se uno non sa qualcosa dovrebbe dimettersi. Vabbè, a parte quindi questa gaffe miserabile. Poi sotto l'impulso della cosa sono messi a fare una legge senza ragionare. Allora, una persona, partiamo, bisogna sempre mettere la persona al centro di una iniziativa legislativa. Si dice, allora, noi chiudiamo gli OPG, bene, a quel punto ci stavano circa 1000 persone dentro. Poi si sono ridotte perché molti erano dimissibili e hanno accelerato le pratiche della dimissione. Alcuni di questi sono stati presi in carico dalle famiglie e se li stanno sopportando loro. Altri non avevano, o non avevano la famiglia, o la famiglia non li voleva, oppure, visto che erano stati lì dentro 10, 15, 20 anni, anche di più, non avevano più nessuno dove andare. Bene, che si fa con questa gente? Si butta per strada? E no, ovviamente, anche perché se anche sono entrati che erano sanissimi, perché la gran parte delle persone entrate lì erano sane, soltanto che sane erano come tutti noi che in un momento erano dati in escandescenza. Beh, dopo i 5-10 anni nell'OPG è chiaro che qualche problema te l'hanno creato loro, cioè quelli che ti hanno tenuto nell'OPG, per cui quando esci dove vai? Non è più la possibilità di praticare libertà, cioè di praticare come dire, dei percorsi autonomi, delle scelte autonome, di vivere autonomamente nella società, non lo puoi fare, perché sei stato completamente annichilito dagli psicofarmaci, dalle botte, dalle condizioni spaventose in cui ti hanno tenuto, quindi va accompagnato. E allora dove stanno queste strutture di civili, di persone civili, assistenti, cioè che accompagnano questa gente per la strada, facendoli riappropriare della libertà di movimento, di prendere l'auto, di scegliere di andare a comprarsi questa cosa, di tornare ogni giorno, ogni settimana, ogni quand'è al centro igiene mentale, fare quella visita e poi tornare a casa, cioè tutte queste cose. E chiaramente ci vuole una grossa fetta di assistenti di queste persone che li seguano e li possano riattivare. Questa è la riattivazione, che è costosa, è ovvio che costa, ma per quello avevano sempre scelto la reclusione piuttosto che la gestione esterna di queste persone. E allora, come diciamo, circa 300 andranno nelle REMS, gli altri sono dimissibili, quindi devono uscire. Però hanno questo problema, perché alcuni di questi hanno già fatto dei tentativi, ma non c'hanno chi li può accogliere. Allora, ci vogliono le strutture che li accolgono, cioè libere, però case dove possono essere accompagnati da qualcuno, riprendere la vita nella città accompagnati da qualcuno, insomma, tutto questo ovviamente necessita di grossi investimenti e lanciare un'assistenza territoriale, non reclusiva, ma territoriale, lì, di persone libere che però, avendo delle difficoltà, vengono accompagnati da degli assistenti. È come i disabili: il disabile ha bisogno di qualcuno che li accompagna, perché non ha la possibilità di muoversi liberamente come gli altri, e questo è il problema. Ma questi sono stati stanziati fondi per poter avere tutta questa grosso numero di assistenti territoriali per gestire queste persone? Ovviamente no, ci stanno i soldi, vi urlano sempre che non ci sono i soldi. Non solo, ma c'è anche un altro fatto molto grave, che non solo non vogliono spendere i soldi, non ci stanno i soldi, ma il problema è che col discorso della fine della reclusione, perché anche le REMS in realtà non è scritto dettagliatamente, però nella legge che istituisce le REMS sono dei momenti di passaggio, dovrebbero essere la transizione dalla reclusione per disturbo psichiatrico alla libertà, quindi un passaggio fatto attraverso queste REMS, una sorta di transizione dalla reclusione alla controllo territoriale, cioè alla gestione territoriale di queste persone, quindi con un grosso sviluppo di assistenza territoriale, con un grosso stanziamento appunto di fondi, case e altri meccanismi che possono sicuramente darle mettere in grado queste persone di riconquistare la propria libertà. E il problema è che c'è anche un'altra difficoltà: il corpo degli psichiatri che gestivano, erano loro che gestivano questi OPG e che ancora gestiranno le REMS, non sono del tutto d'accordo a veder finita la pratica della reclusione per il disagio mentale, perché è la loro forza, viene da lì. E quindi hanno delle difficoltà, non dico tutti gli psichiatri ovviamente, però la casta, visto che in Italia si parla di casta, comunque il blocco degli psichiatri che operano e hanno tratto i loro vantaggi da mantenere in piedi queste strutture, ma sono anche quelli che poi impongono, prescrivono il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, quindi le cose si trattava con questa legge di affrontare un blocco di marmo e bisogna, è come se appunto si vuole distruggere un blocco di marmo con un cucchiaino, bisogna con punteruolo, cioè bisognava mettere in moto dei meccanismi per trasformare il meccanismo reclusorio per il disagio mentale a un sistema di gestione territoriale, e questo non si è fatto, quindi sarà un disastro, non ne parlano più i giornali, ma sarà un disastro. Questo è il primo punto. Il secondo punto, diciamo, la tortura, ci stanno già diversi, trovate sui giornali diversi discorsi dei alcuni avvocati dell'Unione Camere Penali, che è l'unione che riguarda gli avvocati, che dicono con questa legge sarebbero rimasti impuniti i macellai della Diaz, esplicitamente dicono così, e quindi è quello che diciamo dall'inizio, no? Questa legge non si va da nessuna parte. E poi ecco la cosa bella, l'Italia che produce, dopo la sentenza della Corte Europea di Strasburgo che ha detto in Italia c'è la tortura, è stata praticata in massa a Genova nel 2001, invece di dire vabbè allora revisioniamo un po' le cose, facciamo una commissione d'inchiesta parlamentare sul G8 di Genova, a distanza di 15 anni, 14, insomma siamo lì, si fa la commissione d'inchiesta. Ecco, la mania delle commissioni d'inchiesta parlamentare che non cavano mai un ragno dal buco, e non lo possono cavare perché non è quello il problema. Il problema di Genova ha messo in luce con chiarezza esemplare, proprio, ma con una chiarezza spaventosa, il rapporto tra conflitto sociale e ordine capitalistico in questa fase. Non parliamo di, non è che diciamo ma non facciamo i confronti con 40, 50 anni fa, un secolo fa. In questa fase il confronto tra un conflitto numericamente esteso, si parla che a Genova c'erano oltre 300.000 persone, e un apparato statale in una situazione in cui cominciavano gli albori di questa crisi, quindi si restringevano gli spazi di trattativa, ecco, si pone in questo modo di distruggere, annichilire, annientare i movimenti di lotta. E questo non è che poi l'hanno fatta a Genova e poi fino a tutto sono tornati a offrirci le caramelle, i babà quando si lotta, è continuato. Se voi vedete una delle ultime fatti successi a Roma, per esempio l'incriminazione, la denuncia e l'incriminazione con restrizione di libertà alle firme per 5 attivisti che praticavano una delle cose più nobili in questa fase, in questo mondo, ossia l'antisfratto. C'erano persone spesso disagiate, anziani, famiglie immigrati eccetera, che stavano in un alloggio e che avevano il provvedimento di sfratto. Ebbene, questi compagni, no, cercavano, facendo dei comitati antisfratto, cercavano di impedire lo sfratto, perché le condizioni di queste persone non potevano andare in mezzo alla strada con anziani, bambini o disagi di altro tipo. Ecco, e questa attività, questo semplice conflitto molto elementare, basato sulla difesa di un bisogno elementare che è quello di un tetto sulla testa, sono stati denunciati e incriminati. Quindi, come vedete, il meccanismo è sempre lo stesso: tentare di distruggere il conflitto quando questo si manifesta. Questa è la realtà di oggi. Quindi fa ridere, per non dire peggio, tutta l'indignazione sollevata sulla stampa italiana da quella agente di pubblica sicurezza, credo sia di polizia, che ha scritto su Facebook abbiamo fatto bene a fare quello che abbiamo fatto alla Diaz, io lo farei altre 1000, 2000 volte, frasi del genere. Bene, tutti a scandalizzare, no, non è quello il problema è che dal luglio 2001 a oggi non solo l'hanno detta questa cosa ingenti gruppi di forze dell'ordine, ma l'hanno praticata. Il problema è un altro, ed è questo: quale risposta ha avuto le torture, i massacri alla scuola Diaz e poi a Bolzaneto da parte del movimento? Qual è stata la risposta del movimento, a parte quella di rincorrere un processo illusorio che non avrebbe mai potuto, perché non avvengono queste cose, soprattutto non avvengono in Italia, condannare gli autori di quei massacri, anche perché il codice penale, piaccia o non piaccia, cari signori belli, dotti oppure non dotti, il codice penale non serve a regolare il rapporto tra Stato e conflitto sociale. Il codice penale serve a individuare le singole persone che fanno delle violazioni di legge e punirle con la galera, punto. Ora è chiaro, e poi il discorso, il rapporto tra conflitto sociale è stato è regolato da altra cosa, da una cosa che si chiama repressione, che va oltre il codice. Poi sì, a volte utilizza chiaramente gli strumenti del codice per condannare, eccetera, però è una questione politica, del tutto squisitamente politica. Diversa è la questione invece giudiziaria. Allora, pensare di affrontare un tema politico come lo scontro che c'è stato tra uno Stato che voleva azzerare i movimenti, e in parte ci è riuscito, con la violenza, con la tortura, che ha rappresentato il Genoa 2001, quella situazione lì, il rapporto tra quello Stato e quei governi, non solo quello ma anche quelli che verranno appresso, e il movimento di lotta, è un fatto squisitamente politico che non si può affrontare in termini giudiziari, e infatti è finito nel nulla. Ma sul piano politico qual è stata la risposta? La risposta non c'è stata, ed è cosa peggiore non dare risposta ad una violenza di questo tipo. Abbiamo dovuto aspettare la Corte Europea di Strasburgo, fa un po' ridere, fa piangere, da mettersi da me. Insomma, c'è stata però una risposta. Un anno e mezzo dopo, era nell'autunno del 2002, in quel di Firenze, il movimento dell'altro cosiddetto altro mondo, quelli cosiddetti alternativi, facciamo un altro mondo, cioè si ritrovò a Firenze coccolato dalle istituzioni che gli offrirono una sede, tanti rinfreschi, cose per discutere dell'altro mondo da fare, dell'altro mondo possibile, con strumenti messi a disposizione appunto dalle istituzioni, e però appunto non hanno assolutamente, non solo non hanno affrontato il tema di come rispondere alle torture, ma addirittura hanno quasi avallato. Kissing where we go, go, go, go. Be-bop-a-loo-la, she's my baby. Be-bop-a-loo-la, I don't mean maybe. Be-bop-a-loo-la, she's my baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Be-bop-a-loo-la, she's my baby now, my baby now, my baby now. as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a cause to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. Allora, 15:47, ancora in diretta. Dunque, leggendo i giornali di oggi, no? se avete a portata di mano il Corriere della Sera la potete trovare, però la trovate ovviamente, se uno non l'ha comprato questo giornale, si trova anche in internet sulla edizione online del Corriere della Sera. Allora, c'è un reportage fatto da un carcere in Norvegia, si chiama Bastøy, non so se è scritto così, con la O barrata, non so se la pronuncia è esatta, ma io non so il norvegese e me ne scuso. Titola così: Bastøy, il carcere senza sbarre dove i detenuti sognano di entrare. Che cosa parla? Ora, ovviamente, prima da ricordare, perché non è una novità, la Norvegia non è nuova, ma è al tentativo di liberarsi dal carcere. È uno di quei pochi paesi che nei decenni scorsi ha tentato la cosiddetta decarcerizzazione, che è una sorta di un ramo inferiore dell'abolizionismo del carcere, però tendeva alla superare l'abolizione del carcere. Cioè, era come l'idea della decarcerizzazione nasce dal fatto di togliere i reati minori dal sistema carcere, trovando altri sistemi di sanzione, in genere economici, amministrativi, oppure appunto di così, economici, amministrativi più che altro, e via via, andando diciamo dal basso verso l'alto, togliere autori di violazione di legge dal carcere, sostituendoli con altri tipi di sanzione, molto più per arrivare fino a togliere il carcere. È arrivato questa opera di decarcerizzazione, ha portato nel periodo più importante di questo percorso, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, ad avere 200-300 persone in carcere, non di più. Quindi era quasi. Poi c'è stato Vabbè, la situazione europea si è un po' ingrovigliata, c'è stato il fenomeno della droga che ha spaventato la gente, quindi non si sapeva come combattere questo fenomeno nuovo. Insomma, la questione è un po' cambiata, insomma, no? Si è interrotto il percorso di carcerizzazione. Tuttavia le carceri in Norvegia non hanno nulla a che vedere con le carceri in altri paesi. In realtà sono carceri in cui perlomeno rispetto alle condizioni materiali di vita non superano di gran lunga, non dico quelle italiane ma anche quelle di altri paesi, ma di gran lunga. E tra l'altro la Norvegia è il paese che ha avuto delle persone impegnate, dei gruppi di studio molto validi che si sono impegnati proprio sul percorso della sia della decarcerizzazione ma anche dell'abolizionismo, di abolire il carcere. I testi più importanti tesi al superamento del carcere, che hanno messo in luce la negatività del sistema reclusorio in quanto tale, sia su chi viene recluso o reclusa, sia sulla società in generale. Ebbene, quindi la Norvegia è un paese, diciamo, probabilmente è il paese all'avanguardia per il tentativo, anche se interrotto o comunque portato avanti con stento grazie al disastro che sta avvenendo in questa parte del mondo, ma anche in altre parti, cioè il mondo sta subendo una involuzione autoritaria spaventosa in questi ultimi decenni per tanti motivi, anche perché sono venuti meno i movimenti di trasformazione sociale, il conflitto sociale si è molto affievolito, e quando il conflitto sociale si affievolisce la baraonda reazionaria chiaramente prevale, e il mondo è fatto così, non è che c'è tanto o il conflitto sociale, quello della trasformazione sociale va avanti all'offensiva e impone cambiamenti anche se non sostanziali, cioè però intanto degli adeguamenti che via via cambiano l'esistente, oppure quando il conflitto si affievolisce non c'è più l'ondata reazionaria repressiva come adesso la fa da padrone, vabbè, e le carceri si riempiono e viene fuori le brutture. Dunque adesso appunto, ma l'hanno fatto adesso questo reportage di Alessandra Borrella e Cecilia Andrea Bacci perché appunto forse sono andati a visitare questo carcere, però questi tentativi li si sta facendo da tempo. Comunque è una piccola isola, Bastoi, bianca, le stiamo leggendo, e tra l'interno e l'esterno si danno il cambio 3 o 4 uomini con addosso delle giacche gialle, sorridono, vabbè, questa è tutta, racconta un po' la cosa. Intorno non c'è che vento, freddo e silenzio, perché è un'isola a circa 75 km da Oslo, che è la capitale della Norvegia. Alcuni uomini del personale staccano, il loro turno è finito, è arrivato il momento di tornare a casa, solo che non stiamo parlando di marinai ma di detenuti, e la loro non è una semplice casa, ma una delle 88 abitazioni rigorosamente in legno che costituiscono questo singolare carcere norvegese. E appunto in un'isola, sì, qui c'è anche delle fotografie, praticamente queste persone vivono come si vive per esempio agli arresti domiciliari, il meccanismo è quello, quindi se uno volesse trasformare, man mano ridurre il carcere per favorire situazioni diverse di non sottrazione di libertà, ci sarebbe già il modello anche qui, in tutti i paesi c'è non gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare, che mentre l'arresto significa l'arresto domiciliare è in attesa degli interrogatori e del processo, si chiama arresto, invece quando uno è stato condannato e è stata fatta uno dei tanti provvedimenti svuota carceri in Italia, è quello che dice che fino a 4 anni, una condanna fino a 4 anni si può scontare in detenzione domiciliare, cioè il domicilio diventa un luogo dove scontare la pena invece il carcere, con delle limitazioni, per esempio la sera deve rientrare a una certa ora, la mattina non può uscire prima di una certa ora per andare al lavoro, non puoi ricevere persone pregiudicate, insomma una serie di meccanismi qua, però insomma e questo carcere qui è organizzato in maniera tale per cui le persone non tornano a loro casa, ma gli viene data a ciascuno una casetta di legno del tutto nei dintorni di questo luogo chiamato carcere nell'isola di Bastoi. Loro lavorano, fanno le loro cose, poi staccano, finita l'ora, tornano in queste casette dove sono liberi, del tutto liberi, no? Solo che non possono allontanarsi, abbandonare quella casetta, ma sono liberi, possono ricevere chiunque, quindi avere visite, avere rapporti di tutti i tipi, mangiare quello che vogliono, cioè vivono, essere è come una casa, però sta in un in un luogo chiamato appunto carcere di Bastoi, per cui sono non possono abbandonare quell'isola, ma è anche chi sta in detenzione domiciliare non può abbandonare la propria casa, quindi il meccanismo è abbastanza lo stesso. E viene così esaltato perché appunto sono persone che in realtà vivono una parziale sottrazione di libertà, perché cioè, rispetto a quello che si vive qui da noi non c'è paragone. È certo che vengono sottratti, attenzione, questo è il passaggio, è molto delicato, perché se poi ci si parlerà in giro, allora non gli viene tolta la libertà, no, perché sono liberi, per esempio, in queste loro residenze può venire chiunque, la fidanzata o il fidanzato se sono donne, gli amici, farsi una partita a carte, chiacchierare, bere, cioè fare un po' tutto quello che vogliono in queste loro case lì. Sono stati, quindi non gli è stata tolta la libertà di mantenere relazioni con persone esterne, gli è stata tolta la socialità esterna, cioè non calpestano le strade che calpestiamo tutti noi, non frequentano gli ambienti che frequentiamo tutti noi, stanno in queste residenze particolari che stanno in quest'isola carceraria, però lì dentro possono avere tutti i tipi di contatti, non è che c'è l'ora di colloquio, loro quando finiscono il turno di lavoro tornano in queste cose e li possono fare come se fossero a casa loro, qualunque cosa, e questo è il meccanismo. Però non hanno la possibilità di andare, che ne so, a farsi al cinema di Oslo, alla trattoria dell'altra città, che non so, conosco solo Oslo da Norvegia, per dire, cioè, ed è importante, cioè una cosa è togliere la libertà, come viene qui da noi col carcere in Francia, in Inghilterra, cioè, ti tolgono la libertà e ti esportano in un luogo dove non c'è nulla, che sarebbe appunto il carcere, e quindi ti deportano, ti spezzano, no? Ti separano, e in questo caso ti tolgono soltanto, non la libertà intesa in senso ampio che significa relazione, un bel pezzo di libertà, quella di poter frequentare i luoghi degli altri, persone libere, quindi sei comunque un non libero, però a livelli diversi da come è un esperimento per vedere. Certo, i dati dicono che chi esce da questo carcere, ovviamente immagino che ci sia una selezione anche per chi entra, comunque quelli che escono dal carcere non tornano più a delinquere, anche perché con questo sistema imparano un mestiere, perché appunto la mattina escono da queste loro casupole di legno e vanno a lavorare, a fare dei lavori, qui non ci dicono quali, comunque imparano quindi questo mestiere che sanno fare bene, e quando escono non si tratta solo di continuarlo. Quindi non torna a delinquere. In Italia e anche in Norvegia, quelli che escono dal carcere cosiddetto normale, quello che reclude, superano il 70% i recidivi, cioè quelli che tornano a delinquere. In Italia, cioè in genere in Europa, la media è il 70% la recidiva, cioè il tornare a delinquere. Questo per dire che il carcere conferma quella biografia, cioè la biografia che ti stampa addosso il giudice che ti condanna e la matricola del carcere che c'è all'elenco, questo è un delinquente, quella biografia lì è confermata dal carcere, cioè il carcere non fa altro che confermare, se anche tu hai fatto un'azione illegale perché appunto gli amici oppure perché ti andava eccetera, dopo il processo sei bollato come delinquente, il carcere conferma quella tua biografia, cioè tu una volta uscito non potrai che continuare, e non è una affermazione ideologica mia o di chi afferma queste cose, è perché i dati dicono che il 72 in Italia, il 73-75% torna a delinquere, come dicono loro, in Europa la media è il 70%, quelli che escono dal carcere cosiddetto, al carcere classico, da questo carcere qui, questi esperimenti invece riducono di molto. Il problema però anche qui, attenzione, non mettiamoci dentro come qualcuno qui fa, dice: ah, quello è un vero carcere per rieducare. Qui non si tratta di rieducare nessuno, non c'è da rieducare nessuno, non siamo all'asilo nido. Qui il problema è che queste persone intanto sono messe in condizione di non aumentare la rabbia che ti deriva dal fatto della separazione, della deportazione che induce il carcere, prima cosa. Seconda cosa, entri in un mondo lavorativo che puoi continuare a mantenere fuori. Cioè, tu una volta uscito da Bastoi continui a fare il lavoro che facevi prima, solo che la sera te ne torni a casa tua e quindi è chiaro che non hai tanto la voglia di riprendere a fare gli impicci e altre cose. Questo è il meccanismo, quindi non c'è la parola rieducazione, è la parola più sbagliata che esista al mondo. In realtà quello che andrebbe detto è mettere in condizione le persone che stanno in carcere di poter appunto intanto fare una scelta, poter o meno avere